Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao. Benvenuti al magazzino dei carri. Questo è il posto dove si costruiscono, ma penso che siete stati tutti almeno una volta. Possibile? Sì! Tutti? No! No, no. Ho sentito un no. Bene, allora la prima volta e va benissimo. Buongiorno, noi siamo la classe quinta B di Volano, la scuola primaria di Volano Gian Chrisostomo Tovazzi, e vorremmo conoscere nei dettagli cosa viene costruito in questo meraviglioso posto. È un piacere conoscervi, io sono Francesca Pozza, faccio parte del comitato carnevale di Volano che organizza questa manifestazione. Questo è il magazzino di costruzione dei carri. Al momento ci sono in costruzione 8 carri. In sfilata ne vedrete uno di più che non si trova qui, ma si trova in un garage di una casa. Com'è nata l'idea di realizzare i carri? L'idea è nata un sacco di anni fa, perché il carnevale quest'anno festeggia, quanti anni? Qualcuno 61. Lo sa? 61. Bravissime. Quindi quest'anno 61. Quindi 61 anni fa a qualcuno è venuto in mente di inventarsi un'attività per poter tenere bambini, ragazzi e genitori impegnati durante l'inverno, perché non c'era niente di bello da fare. Quindi al parroco, si chiamava Don Luciano Frank, è venuto in mente di costruire questi carretti nei garage delle case, nei cortili, e il martedì a carnevale sfilare lungo le vie del paese. Una volta i carri come erano? Una volta i carri erano molto più piccoli di questi, perché se pensiamo che erano costruiti nei garage e nei cortili non c'era tutto questo spazio, quindi si costruivano sui bilici dei trattori con cui si andava in campagna, non si poteva andare così alti, erano un po' più bassi, dovevano starci nei garage tutti in un pezzo senza usare la gru per aggiungere pezzi, quindi erano molto più piccoli, erano fatti con materiali diversi, non c'era tutto questo legno nuovo comprato apposta, non c'erano materiali, ferro, si usava tanto legname preso in campagna, dalle vigne, materiali di recupero, giornali, scatoloni, tutto quello che si trovava a costo zero, bassissimo, si usava per fare i carri. Ricordi qualche carro in particolare nel corso degli anni? Io mi ricordo benissimo i miei carri su cui sono salita quando avevo la vostra età, ero alle elementari, li costruivano ovviamente i miei genitori e i genitori dei bambini che erano in classe con me, e io mi ricordo benissimo quei carri. Non abbiamo mai vinto niente, però ci siamo sempre divertiti tantissimo e quelli me li ricordo. Mi ricordo il carro di Robin Hood, mi ricordo un carro sul Mart, il museo di Rovereto che aveva aperto quell'anno. E questi sono quelli che mi ricordo meglio.